sta per arrivare una sorta di lezione di volo. Perché vi dico questo? Perché Sono Io, il nuovo album di inediti del cantautore romano Marco Zitelli, in arte Wrong on You. Ritratto sincero e senza filtri dell'artista che arriva dopo l'esperienza sanremese, dove è arrivato in finale appunto nei giovani e si è aggiudicato il premio della critica Mia Martini nella categoria Nuove Proposte grazie al brano Lezioni di Volo. Dopo aver trovato il coraggio di comunicare con il pubblico senza il filtro della lingua inglese, calcato i palchi dei più importanti festival internazionali, Wrong on You fa adesso un ulteriore passo avanti, scavando dentro se stesso e riuscendo finalmente a raccontarsi a 360 gradi. Il risultato è un manifesto di accettazione di ogni parte di sé, un grido libero davanti allo specchio dopo anni in cui è stato difficile confrontarsi con il proprio io. A dar forza al concetto è proprio il titolo del disco, una frase semplice, però devo dire diretta, è un biglietto da visita con il quale presentarsi di fronte ad un nuovo pubblico che appunto lo ha conosciuto durante la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il disco è un percorso che parte proprio con la tracklist Sono Io, quindi direi di partire con questo brano e poi sui 103.1 avremo Wrong on You. Sono io quello contro il muro dentro la stanza, sì che sono io. La gente ride, io che sto fermo dietro la barba, sono io. E scusa se ti guardo come vedessi l'arcobaleno per la prima volta. Tanto a te che importa, se piango troppo ho sempre fame e che mi sento come un bonsai, coi rami rotti sotto un temporale, sono la metà di chi vorrei, e invece tu sei così tanto tu. Io, quello che ci muore con la chitarra, sì che sono io. Non sai quante volte cambierei stato, eppure faccio, ma sono io. Con gli occhi spalancati come la gente agli arrivi dentro l'aeroporto, non me ne ero accorto che fumo troppo. Se ti vedo è il mio compleanno e non lo sai, ho un sasso in gola e non respiro. Ti ho cacciato, tu non vai, non te ne vai. Sei così tanto tu. Canto questa canzone, non saprei dirti il mio nome, volevo dirti che sei così tanto tu, che non mi ricordo più. Questa canzone, non saprei dirti il mio nome, volevo dirti che. E così abbiamo appena ascoltato Sono Io, ma appunto lo abbiamo già in collegamento telefonico, ma prima appunto continuo a raccontarvi. Il disco è proprio un percorso che proprio parte da questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Sono Io, una vera e propria dichiarazione di intenti, in quali poi vengono sviscerati in brani come Lezioni di Volo, trovare il coraggio di lasciarsi andare, Vertigini, Nada. E poi appunto arriva proprio la svolta con Prima che mi perda ancora e Torniamo da noi. Allora diciamo benvenuto il coraggio, la serenità di accettarsi per come si è, sia caratterialmente che fisicamente, ha la capacità di impattare dei propri errori e nonostante tutto andare avanti. E quindi io sono felicissima di avere in collegamento telefonico con noi Wrong on View. Benvenuto su 103.1, ciao! Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio. Come stai? Bene, un po' provato, però bene. Mo vediamo se riesco a ritagliarmi qualche giorno di stop, però sono super contento di lavorare tanto in un periodo del genere, quindi alla grande, dai. Beh, anche perché tutto benissimo. Effettivamente io immagino che già tutta la preparazione a Sanremo sia impegnativa, in un anno come questo forse ancora di più, però poi anche il post Sanremo è molto impegnativo. Sì, ma se il post Sanremo è impegnativo vuol dire che è andato bene Sanremo, quindi alla grande, sono contento di poter lavorare, insomma. Quindi, esattamente, tra l'altro noi appunto abbiamo appena ascoltato Sono Io, ed è bello poi quando un brano è proprio una sorta di dichiarazione di intenti. Mm-hmm. Sì, nel senso Sono Io, insomma, che poi tra l'altro Sono Io è l'unica canzone di questo disco che non ho scritto durante il lockdown. È una canzone che ho scritto 2 anni fa, che era la primissima che scrivo in italiano, perché non lo sapesse comunque, giustamente io prima scrivo in inglese, sono passato all'italiano da un paio d'anni, e quindi però era così intima che comunque sia non avevo, volendo, anche il coraggio di cantarla subito, di iniziare in italiano a cantare subito così di me, in modo così, come si può dire, così a nudo, insomma. E quindi l'ho tenuta da parte, solo che è arrivato il momento di farla uscire, ecco. Tra l'altro tu effettivamente hai già anticipato, e anche nell'introduzione all'inizio lo dicevi, inizialmente cantavi in inglese, appunto anche magari per avere un filtro maggiore dato appunto dalla differenza linguistica. Come mai hai poi deciso però appunto di iniziare anche a scrivere e produrre in italiano? Ma sai, in inglese, cantando in inglese ho raggiunto tanti obiettivi che mi ero predisposto, e a essere sincero non avevo altri. Sono riuscito a suonare ai festival più importanti d'Europa, tra cui anche il Primavera Sound, poi sono riuscito ad andare in America, al Sound by Southwest, ho registrato un disco in California. Quindi comunque sì, ho raggiunto degli obiettivi grandi in inglese, però trovando anche delle barriere proprio a livello di nazionalità che ci bloccavano per quanto riguarda gli italiani all'estero. Mi ricordo una volta al Subway Southwest in Texas, dopo che ho suonato, sono vicino dei ragazzi dicendo: no vabbè, ma tu secondo noi sei nuova Shira, ci possiamo fare una foto, perché poi magari diventi troppo famoso e non ti riusciamo a beccare. Fatto volentieri. Ma da dove vieni? Vengo da Roma. Ah, ma sei italiano, vabbè dai, non fa niente per la foto, grazie, ciao, ce ne sono andati. Quindi questa cosa mi ha fatto dire: è tosta all'estero. Io dicevo sempre: vado a rubare a casa dei ladri quando andavo a suonare in America o all'estero, perché il folk loro, insomma, lo mangiano a colazione, lo sono inventato. Quindi l'italiano è stata una nuova sfida e mi ha fatto piacere, insomma, cominciare a cantare nella mia lingua natia, e sono contento, insomma, che in solo 2 anni poi in italiano si è arrivati a un premio importante, insomma, quest'anno. Quindi super, sono super contento come sta andando. Esatto, anche perché l'esperienza sanremese, ti sei portato a casa il premio della critica Mia Martini, quindi insomma uno dei più grandi prestigi. Sì, io devo essere sincero, il premio a cui più puntavo era quello, perché insomma sarebbe stato bello anche vincere Sanremo, ma quello me ne importa un po' di meno, perché il premio della critica Mia Martini, insomma, viene aggiudicato da esperti del settore, da una giuria interna, e quindi per me c'aveva tanto valore, e io, essere sincero, puntavo a quello, quindi sono super felice che è arrivato. E com'è stato esibirti? Noi spesso all'interno del nostro Fujiko Factory abbiamo fatto, diciamo, tante inchieste anche con artisti e artiste, soprattutto insomma in un anno del genere in cui i live non si possono fare. Sanremo fino all'ultimo era comunque molto in bilico, soprattutto pubblico sì, pubblico no. Com'è stato esibirsi per la prima volta comunque in un festival così importante italiano, dopo appunto tante esperienze all'estero, cantando in italiano però senza pubblico, quindi con un teatro Ariston vuoto? Vabbè, allora, a parte che io la prima sera c'avevo i palloncini, quindi qualcuno c'era in sala comunque, la sala piena, io ero sold out, lo cantavo. Allora, a parte questo, devo essere sincero, ero talmente concentrato sul non cadere dalle scale mentre scendevo e nel fare la canzone, cantarla nel migliore dei modi, stare a tempo, sentire il click, che ti passa di mente che se c'è o non c'è il pubblico. Devo dire che non ha pesato per niente riguardo la partecipazione al festival. La differenza invece con altri festival europei, insomma, è stato strano, perché comunque io mi sentivo abbastanza tranquillo prima di salire sul palco. Poi appena ho fatto il primo gradino mi si è prosciugata la saliva immediatamente. C'ha un peso quel palco molto particolare, cioè un palco che senti tutta l'importanza di quel palco e la storicità. Quindi nel momento in cui lo calchi dici cavolo, ti rendi conto dove stai? Io me ne sono reso conto proprio prima di iniziare, ho alzato un attimo gli occhi e sopra c'era scritto Festival di Sanremo, 71esima edizione della canzone italiana. Lì ho detto cazzarola, guardando sono finito. Allora lì sono sentito tutto il peso e sono stato super felice di aver partecipato. In più in un'annata del genere dove era l'unico modo per riuscire a suonare dal vivo, insomma, quel periodo, quindi è stato un onore. No, mi ha incuriosito la cosa delle scale, perché effettivamente anche noi mentre lo commentavamo, io sono la prima che forse farei come Orietta Berti, che alla fine ha deciso di non scendere le scale, forse anche altri. Quindi immagino che già comunque la tensione, il sapere di avere comunque 3-4 minuti per arrivare ad un pubblico a casa, arrivare insomma alla giuria demoscopica, insomma tutti i vari certo, meccanismi del festival. E poi appunto ritrovarsi a dover fare una scalinata prima di è un grande ostacolo anche quello, devo dire. Sì, ma poi guarda, ti dico la verità, la mia era un problema fisico, nel senso che io ho 47 di piede, i scalini per me sono sempre piccoli, più metti che sono neri, più tutta la pressione dei 10 milioni di italiani che ti guardano, che se cadi dalle scale diventi un meme vivente. Quello è allora, vero, dopo Pugo e Morgan si aspettava un po' un altro meme, una caduta dalle scale sarebbe sicuramente un meme indimenticabile, no, vero? No, che poi immagina con me, che la canzone che porto si chiama Lezioni di volo, volo dalle scale, capito? Cioè sarebbe stato la fine della mia carriera, Lezioni di volo dalle scale, sarebbe stato proprio la fine. Oppure poteva essere come lo scorso anno, non mi ricordo chi era, no, era Gali che appunto ha fatto le scalinate cadendo, ma in realtà poi erano controfigure e poi appunto ha fatto le scalinate lui, quindi volendo in realtà portando un brano che era appunto Lezioni di volo, magari poteva essere una gag. Sì, ma io se cado dalle scale è perché vuol dire che sono caduto davvero, guarda, quindi è meglio che sia arrivato sano e stato, guarda. E infatti poi arriviamo a Lezioni di volo, cosa volevi trasmettere con questo brano? Ma per me è proprio rappresenta proprio l'uccidere la paura di sentirsi liberi per quanto riguarda Lezioni di volo. In più è stato un modo per riuscire a superare il lockdown quando l'ho scritta. Era tutto partito da una frase che è voleremo da fermi per stare meglio, perché usando proprio l'immaginazione, no? Perché mi sono reso anche conto che è una cosa che perdiamo nel momento in cui passiamo da bambini ad adolescenti, è proprio quella libertà di pensiero, quella spensieratezza, poi subentra il pudore, poi se ci metti che fai il cantante, entri nel music business, allora c'hai pensieri come oddio dura troppo la canzone, l'intro è troppo lungo, il ritornello deve entrare prima, e ci si va un po' a perdere quella libertà artistica di fare musica, quindi ho voluto fare un passo indietro e fare una canzone e poi tutto un disco interamente per me, così da poterlo apprezzare io per primo, per fare un disco più sincero possibile, e quindi è stata insomma la svolta, quella che ha dato poi il via a tutta una scrittura che è durata quei 4 mesi, poi sono usciti fuori i brani e poi li abbiamo prodotti. Tra l'altro proprio anche leggendo la tracklist che ho proprio qua sotto, appunto si parte dai brani Sono io, Lezioni di volo, Vertigini, Nada, Bon Iver, Prima che mi perda ancora, Torniamo da noi, Nonno Bruno e Amor proprio, quindi proprio anche i titoli in un qualche modo creano già una storia. Sì, io volevo fare proprio un concept album che fosse tutto collegato. Io ovviamente sono il protagonista del disco perché ho deciso di mettermi a nudo e raccontarmi, ma è stato proprio terapeutico per me, cioè nel senso raccontarmi, quindi poi di conseguenza vedermi come sono dentro da fuori, ascoltando poi le canzoni o leggendo quello che scrivevo, è stato pure un modo per conoscermi meglio, insomma, migliorare tutte le cose che non mi piacevano. Quindi una sorta di concept album che... insomma, che potesse essere anche una sorta di terapia, che poi perlomeno io ascolto musica proprio anche per fare terapia, e quindi devo dire che effettivamente ascoltando le tue canzoni ci si può effettivamente immedesimare molto. Infatti ti volevo chiedere, mentre Nonno Bruno cosa rappresenta? Beh, Nonno Bruno rappresenta la persona più importante della mia vita finora, insomma, direi. Lui se n'è andato il giorno del mio compleanno, quando ho fatto 16 anni, e è stata una persona che mi sono tenuto nel cuore, che me la terrò per sempre, ma è stato come un secondo papà per me, e quindi ho scritto questa canzone che io volevo dedicare, che non è una cosa oddio perché te ne sei andato, era solo un semplice ricordare tutti i momenti divertenti e belli che abbiamo passato insieme, e visto che per me è una persona importante che porto nel cuore, mi avevo piacere a dedicargli un pezzo. No, infatti mi ha colpito molto questo, perché mentre leggevo la tracklist io pensavo che io invece farei appunto una canzone che si chiamerebbe Nonna Pina, ma anch'io effettivamente... Cioè farei un brano proprio raccontando le cose belle e quello che poi i nonni, forse solo i nonni, sono in grado di darti. Quindi è bello in realtà appunto in un album così importante che ti rappresenta, che parla di te, che vuole appunto anche vincere insomma paure, e un anno del genere così complicato, che poi ci sia una figura di riferimento che, anche se comunque abbiamo perso, rimarrà sempre, avrà sempre quel ruolo nella nostra vita. Assolutamente sì. E quindi insomma un album pieno di canzoni bellissime. Quindi a questo punto io ho una domanda che può sembrare molto stupida, però prenderesti mai lezioni di volo? Ma non lo so, perché poi in tutto ciò io sono super paura di prendere l'aereo. Però secondo me guidarlo, imparare a guidarlo, sicuramente potrebbe uccidere quella paura. Quindi a questo punto direi che magari un semileggero in futuro, perché no? Guarda, facciamo così: quando andrò in pensione comincerò a prendere lezioni di quei semileggeri. Così che nel frattempo faccio guidare gli altri nell'aeroplano, che sicuramente è meglio. Beh, anche perché effettivamente immaginavo che anche dietro lezioni di volo ci potesse essere appunto un messaggio di vincere delle paure, ma che poi ci può stare comunque aver la paura di volare, e forse, cioè, guidare proprio in prima persona potrebbe insomma sconfiggere una paura. Quindi quando prenderai lezioni di volo tu faccelo sapere. Va bene, arrivo direttamente da voi con l'aereo, guarda. Esatto, ecco, tanto siamo anche vicini all'aeroporto, quindi ti aspettiamo. Perfetto, a posto. E io ti ringrazio per essere stato con noi, e direi che ora andiamo proprio ad ascoltarci lezioni di volo. Ciao. Dai, grazie a voi, ciao ciao. Le cose che succedono, sto pensando a te, adesso il tuo nome sul telefono. Ho cinque sensi che lo chiedono, se non sei con me non funzionano come devono. Hai gli occhi neri, quando sono tristi piove giorni interi. Voleremo da fermi per stare meglio. Toccami le mani che mi sveglio, come quel film mai finito in albergo. Io con te gioco allo scoperto, se un giorno dimenticherai. Solo che poi mi riconoscerai. Avvicinati, facciamo una foto. Esci bene anche se non metto a fuoco. Da scappare che mi perdo da solo. Ma puoi darmi lezioni di volo. Accompagnami che andiamo a una festa. Ce ne andremo tardi col mal di testa. Se domani ti risvegli con me, ci prendiamo solo. Resta nei miei spazi personali. Hai cambiato tutto, una carezza, una tsunami. Intreccio le tue braccia come rami. Se un giorno dimenticherai, spero solo che poi mi riconoscerai. Avvicinati, facciamo una foto. Esci bene anche se non metto a fuoco. Non scappare che mi perdo da solo. Ma puoi darmi lezioni di volo. Accompagnami che andiamo a una festa. Ce ne andremo tardi col mal di testa. Se domani ti risvegli con me, ci prendiamo solo il meglio che c'è. Certo, e non vogliamo niente di diverso. Dove sei? Bonjour. Avvicinati, facciamo una foto. Esci bene anche se non metto a fuoco. Da scappare.